Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un viaggio presso uno dei massimi scrittori della civiltà occidentale. Ci accolgono le note più famose del Sogno di una notte di mezz'estate, la famosa trasposizione musicale di Felix Mendelssohn Bartholdy della commedia di William Shakespeare. E in effetti di questo grandissimo scrittore voglio adesso parlarvi perché, per curiosa coincidenza, sono uscite due biografie dedicate al grande scrittore britannico. Il primo libro è quello di Peter Ackroyd, che è uno scrittore inglese piuttosto noto. Si intitola Shakespeare, una biografia, pubblicato da Neri Pozza, 670 pagine, 50 euro, ed è tradotto da Chiara Gabutti. Questo è un bellissimo libro, scritto appunto come un romanzo, che parte dalla descrizione dei luoghi di nascita, nel cui carattere, scrive Ackroyd, vanno ricercati i tratti peculiari di questo figlio baciato dalla fortuna. E quindi si parla di Stratford-upon-Avon, si parla dell'inquadramento storico della famiglia, del periodo in cui Shakespeare visse e lavorò, si parla della sua famiglia, della religione, che ebbe sempre dei contorni incerti per il sospetto di cattolicesimo che gravò sul padre e su lui stesso. Si parla delle aspirazioni nobiliari del padre, che ebbe però poi a un certo punto un misterioso rovescio politico e finanziario, degli studi del teatro di William. Ackroyd naviga tra i documenti certi e le congetture per far capire che tutto può aver concorso alla grandiosa produzione teatrale di Shakespeare. Per esempio, sentite queste pagine nelle quali lo scrittore ci presenta la Londra vivace e brulicante nella quale il giovane attore, ancora soltanto attore, arriva dalla provincia tra il 1586 e il 1587. Il viaggiatore che entrava in città per la prima volta non poteva evitare di restare profondamente commosso o sconvolto dall'esperienza. Londra aggrediva tutti i sensi con la sua esuberanza e con l'accozzaglia di rumori stridenti. Era un vortice di energia, un vortice vorace. Il viaggiatore veniva circondato dai venditori ambulanti o dai mercanti che lo scongiuravano di comprare. Era spintonato e sgomitato. Londra era una città invasa da un frastuono ininterrotto di discussioni, di liti, di vendite per la strada e, nella maggior parte dei casi, puzzava terribilmente di sterco, spazzatura e fatica umana. C'erano i commercianti che ciondolavano pulendosi i denti sulla soglia del negozio. Le loro mogli erano dentro, sedute su uno sgabello e pronte a mercanteggiare con gli avventori. Gli apprendisti stavano fuori dai laboratori dei loro padroni, lanciando richiami ai passanti. I proprietari delle case, il più delle volte, si mettevano in posizione sulla soglia, da dove potevano scambiare pettegolezzi o insulti con i vicini. La privacy, nel senso moderno del termine, non esisteva. Ma il vero miracolo nella Londra del tardo Cinquecento è che la città stava rinnovandosi. Il suo vigore e la sua energia derivavano da un nuovo afflusso di gioventù. Si è stimato che metà della popolazione urbana fosse sotto i 20 anni. Era questo a renderla così impetuosa, così tosta, così eccitabile. Mai più sarebbe stata così giovane. Gli apprendisti ammontavano al 10% della popolazione ed erano noti per la loro esuberanza e per l'occasionale propensione alla violenza. I londinesi venivano spesso paragonati a uno sciame d'api, pronto a radunarsi e ad agire in istintivo accordo. E poi naturalmente nel libro si parla di tutte le opere di Shakespeare presentate in modo appassionato e lirico. Per esempio, così Ackroyd parla del Sogno di una notte di mezz'estate, appunto quello dal quale siamo partiti con le note di Mendelssohn. L'ambientazione della foresta, scrive, la nobiltà del protagonista e il mondo delle fate lo rendono del tutto shakespeariano. Questo è il dolce Shakespeare di cui parla il suo contemporaneo, lo Shakespeare della parodia piena di humor, del lirismo e del sogno. Sogno di una notte di mezz'estate è una commedia di schemi e simmetrie, di musica e armonia ristabilita. Uno dei piaceri più grandi è la formalità, la fluidità del suo schema narrativo. L'altra biografia è quella invece di uno studioso italiano, Stefano Manfellotti, che insegna letteratura inglese all'Università di Napoli Federico II, si intitola Shakespeare ed è pubblicata da Salerno, 346 pagine, 18 euro. Qui l'attenzione dell'autore è dedicata soprattutto ai testi e anzi in appendice troviamo uno strumento molto utile, cioè la sintesi delle trame di tutte le opere di Shakespeare. Di particolare e interessante nel libro di Manfellotti è quello che lui stesso chiama il dialogo, cioè l'autore vuole stabilire un dialogo fra l'opera di Shakespeare, come scrive lui stesso, considerata nei suoi tratti autonomi e distintivi, e quanto le fa idealmente corona, nel passato come nel futuro. Di qui i frequenti rimandi alla tradizione e a un presente novecentesco individuato negli specchi sorretti dei vari Proust, Kafka, Joyce, Wolfe, i copiosi confronti con altre arti, pittura, musica, cinema, a secondo il medesimo scopo. E dunque nel libro troviamo il contesto nella quale maturò l'opera di Shakespeare, la sua vita, e poi un'analisi delle opere raggruppate per genere. Manfellotti parla di un'ambizione panoramica tipica di Shakespeare che gli permette di insinuarsi negli interstizi del mondo guardandolo da tutte le angolazioni, dall'alto, dal basso e di lato, convogliando il destino dell'uno e dei molti in personaggi campiti a tutto tondo in cornici perfette. Shakespeare, conclude, sa davvero parlare a tutti. E naturalmente si parla anche di Sogno di una notte di mezz'estate. Allora facciamo un raffronto con le parole di prima di Aykroyd, ricordando come invece Manfellotti descrive il Sogno di una notte di mezz'estate, per il quale fa riferimento a Kafka e Angelica Carver. Se leggiamo le pagine dedicate da Manfellotti al Sogno di una notte di mezz'estate, possiamo percepire come funziona il dialogo di cui egli stesso parla. Per esempio, in queste pagine Manfellotti fa riferimento a Kafka e a Angela Carter e alla storica messiscena del 1970 di Peter Brook, concludendo che in questo caso quello di Shakespeare è un capolavoro le cui chiavi interpretative si sollevano ad altezze metafisiche. Uno Shakespeare insolito troviamo in un vecchio libro di Leon Rook, uno scrittore statunitense canadese del 1981 e tradotto adesso da Eliot. Il libro si intitola Il cane di Shakespeare, 176 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Manuela Francescon. Qui il protagonista è appunto un cane, Hooker, un cane parlante, il cagnaccio di Shakespeare, che racconta in prima persona la giovinezza del bardo fino alla sofferta e a un certo punto quasi obbligata decisione di andarsene con lo stesso cane a Londra. L'animale è un insopportabile e presuntuoso attaccabrighe che non ha nessun metus reverentialis nei confronti del suo padroncino, che anzi non esita a punire e ad azzannare, perché il cane vorrebbe che il suo padrone avesse meno puzza sotto il naso, scrive, meno disinvoltura nell'ignorare le brutture del mondo. Lo volevo meno romantico, meno infatuato della labilità delle parole e meno avvinghiato a quel che la sua epoca prescriveva in materia di rapporti gerarchici tra uomo e cane. Lo volevo meno arrogante e ampolloso, volevo l'ardore della rivoluzione. Ma il cane è anche un cane filosofo che discetta sull'anima e che in qualche modo segnerà il destino definitivo dello scrittore. Un altro grande classico inglese che ci viene presentato in una veste insolita è Arthur Conan Doyle, di cui non vi propongo adesso un giallo, ma un romanzo storico, peraltro ricco di suspense, che si intitola Lo zio Bernac alla corte di Napoleone, pubblicato da Donzelli, 190 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Riccardo Duranti. Questo libro del 1897, quando Conan Doyle da quasi 10 anni era alla stanga a produrre libri su libri su Sherlock Holmes, a un certo punto prende una boccata d'ossigeno e si permette di scrivere questo libro che con Sherlock Holmes non c'entra nulla, è un vero feuilleton, un romanzo storico, e inventa la trama di un giovane, Louis de Laval, figlio di esuli francesi in Gran Bretagna, che nel 1805 riesce a essere presentato a Napoleone, il quale a sua volta è tutto preso in quei mesi dal pensiero di come sbaragliare il paese rivale, cioè proprio la Gran Bretagna. Un libro ricco di suspense, se non proprio un giallo, è quello che mette in scena un altro grandissimo autore inglese, cioè Charles Dickens. Sto parlando del libro Drood di Dan Simmons, pubblicato da Eliot, 818 pagine, 19,50 euro, tradotto da Anna Tagliavini. Questo è un romanzo abbastanza fluviale, come avete sentito, di uno scrittore americano che prende spunto dall'ultimo libro di Dickens, un giallo appunto intitolato Il mistero di Edwin Drood, è rimasto incompiuto per la morte dell'autore. Protagonista di questo libro è il collega rivale di Dickens, Wilkie Collins, un grande autore britannico a sua volta considerato uno dei padri del genere poliziesco. E nel libro Simmons immagina che Collins scriva un memoriale da pubblicare 100 anni dopo la propria morte e recupera gli ultimi anni di Dickens, Stevens segnati nel libro da un drammatico incidente ferroviario nel quale lo soccorre appunto questo misterioso signor Drood. E da qui tutta una serie di avventure che hanno il merito non solo di tenere desta l'attenzione del lettore, ma anche di ricostruire alla perfezione il clima letterario e sociale dell'Inghilterra vittoriana. E a questo punto... Il confettino. Non poteva mancare, visto il clima, un libro di fantasmi, è quello di Kate Clise, con le illustrazioni di Sarah Clise, che si intitola Trappola per fantasmi, pubblicata dal Castoro, 118 pagine, 13,50 euro, tradotto da Francesco Novaira. È un romanzo dalla formula insolita in cui la trama si sviluppa soprattutto per lettere, documenti, disegni e cronache giornalistiche alla ricerca appunto di un fantasma. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso alla narrativa italiana. Vi propongo un libro scritto a quattro mani da Sonia Raule e dal suo collega, un autore armeno, Vasken Berberian. Il libro si intitola Come sabbia nel vento, è pubblicato da Spelling & Kupfer, 504 pagine, 18,90 euro. L'intreccio del libro è inconsueto e si svolge tra la Milano dei piani alti e l'Armenia perseguitata dalla violenza e dalla natura, nonché dagli uomini naturalmente. I due destini di Milano e dell'Armenia si incrociano nelle vite di Alice, una brillante presentatrice televisiva, e Lena, esule armena a Milano, che farà da babysitter in casa della prima, moglie di un medico armeno, purtroppo in un matrimonio tutt'altro che sereno. Anche la narrazione del libro avviene su diversi piani temporali, a seguire il destino che legherà le due donne così diverse, eppure alla fine così legate anche davanti a un evento drammatico e inatteso. Ma sentiamo uno dei due autori. Sonia Raule. Buongiorno Sonia Raule. Buongiorno. Sonia Raule, che cosa l'ha spinta in questo romanzo innanzitutto a esplorare la condizione, la questione degli armeni? Abbiamo, Vasken Berberian ed io, iniziato a scriverlo senza renderci conto poi di come si sarebbe voluto e di cosa sarebbe diventato. Il coautore del libro è armeno, è un regista, era venuto da me a raccontarmi una storia, che era una bella storia, quella di una tata armena che era stata con i suoi nipoti e che poi aveva ispirato il personaggio di Lena perché voleva farne un film. Poi abbiamo iniziato a chiacchierare, abbiamo pensato di sviluppare anche la figura di una donna italiana, di raccontare un'amicizia che simbolicamente voleva rappresentare l'amicizia poi tra due popoli, la Turchia e l'Armenia, che ancora amici non sono, e abbiamo iniziato l'avventura della scrittura di questo romanzo. Ecco, infatti, come lei diceva, questo romanzo è molto condizionato dall'attualità, infatti a un certo punto, anzi a lungo, si parla della situazione del Nagorno-Karabakh. Pare che la cronaca e l'attualità abbiano un ruolo importante anche per il ruolo e per la professione che svolge una delle protagoniste, cioè Alice, la giornalista. Ma infatti abbiamo voluto raccontare una storia poco conosciuta. Dell'Armenia si sa molto poco, si parla ancora troppo poco del genocidio, però poi di fatto è l'unico evento che si conosce. L'Armenia, che è diventata indipendente dalla Russia nel 1991, subito dopo è precipitata in una grossissima crisi economica, perché andandosene la Russia ha lasciato sì liberi gli armeni, ma anche sbaraccato tutte le sue fabbriche, le sue industrie, lasciando tutti senza lavoro. Contemporaneamente poi l'Armenia è entrata in guerra con l'Azerbaigian, per cui non aveva più rifornimenti, la gente veramente non aveva nulla da riscaldare, moriva di fame e di freddo. E questa storia dell'Armenia contemporanea, dell'Armenia di oggi, è veramente molto poco conosciuta, così come poco si sa che gli armeni hanno combattuto per riprendersi indietro una parte della loro terra, il Nagorno-Karabakh, che era stato a suo tempo da Stalin inglobato nel musulmano Azerbaigian. Ecco, quindi abbiamo voluto raccontare questo pezzetto di storia. Siamo stati in Armenia, siamo stati fino al Nagorno-Karabakh, abbiamo incontrato le persone, abbiamo incontrato i fedain che hanno combattuto, e abbiamo cercato di riportare le loro storie, le loro testimonianze nel romanzo. Un'altra delle protagoniste del vostro romanzo è, direi, Milano, una certa Milano, ricca, elegante, un po' sessuomane, però che sa aprirsi anche a spazi di umanità, di partecipazione. Lei come vede oggi questa città? Quella Milano raccontata nel libro è la Milano che ricordo io nei primi anni Ottanta, erano gli anni in cui la moda stava crescendo, gli stilisti stavano fermando. Milano era una città ricca, era una città cosmopolita, era una città viva, vivace da tutti i punti di vista. Ecco, mi sembra che quel modello di città che abbiamo visto come un flash per un attimo si sia purtroppo, insomma, quel bagliore di luce si sia spento. Invece, nella vostra trama, che cosa rappresenta il rapporto tra Alice e Lena, appunto l'esule dell'Armenia che arriva a Milano e trova lavoro nella famiglia di Alice? Volevamo raccontare la storia di un'amicizia, sono due mondi diversi. Alice è una persona nevrotica, complessa, con un mondo interiore che si aggroviglia, sempre sull'orlo di andare in frantumi. L'altra invece è una donna solida, forte, una donna che ha combattuto, che ha sofferto la fame, i suoi problemi sono problemi concreti, sono legati alla realtà e a fatti reali. Ecco, questi sono i due mondi che si incontrano e che vengono in aiuto l'un l'altro, perché paradossalmente ad un certo punto anche l'essere superficiale ed effimera di Alice in qualche modo è di aiuto a Lena. L'idea del film è ancora valida? L'idea del film è ancora valida, peccato che non ci sono più soldi per fare il film. Beh, speriamo che li troviate. Speriamo, perché se ci saranno i soldi per fare i film vuol dire che, insomma, tutto andrà molto meglio. Grazie, buona domenica Sonia Raule. Grazie mille, arrivederci. Passiamo adesso a un'altra pagina buia della storia del Novecento, cioè la Prima Guerra Mondiale, che fa da sfondo a un bellissimo libro riscoperto di Gabriel Chevalier. Lui è un autore francese forse non notissimo in Italia, vissuto tra il 1895 e il 1969, che peraltro è stato autore di uno dei libri più fortunati del Novecento francese, Cloche-Merle, nel quale disseziona implacabilmente la vita ipocrita della provincia francese, un libro tradotto in tutto il mondo, dal quale è stato anche ricavato un film altrettanto fortunato. Adesso di Chevalier, Adelphi pubblica La paura, 328 pagine, 20 euro, tradotto da Leopoldo Carra. Questo libro era stato pubblicato nel 1930, ma d'accordo con lo scrittore era stato ritirato nel 1939 dalle librerie perché sembrava che il suo messaggio fosse incompatibile col clima bellico che si prevedeva, quello della Seconda Guerra Mondiale, che insomma che il libro servisse piuttosto a disamorare alla guerra che non a entusiasmare. In effetti questo è un implacabile atto d'accusa contro la guerra. Chevalier infatti aveva partecipato al primo conflitto mondiale giovanissimo, spinto più che altro dalla curiosità che non dall'afflato guerriero, e aveva ricavato da quell'esperienza un libro che merita davvero di essere recuperato, non solo per le qualità letterarie ma anche, come dicevo, per l'impietosa dissacrazione del clima bellico nel quale di eroico c'è ben poco, mentre dominano, come l'autore qui documenta, sentimenti umanissimi di paura, crudeltà, miseria, ma anche in certi casi grandezza e civiltà. Per esempio scrive l'autore che per anni ci hanno tenuto giovani, sani, colmi di speranze tanto tenaci da trasformarsi in un tormento, in una specie di agonia della nostra giovinezza, quasi la sua veglia funebre. La guerra ha quindi qua assai poco delle celebrazioni retoriche, delle descrizioni ufficiali, e assume piuttosto i tratti delle pitture medievali col trionfo della morte. Il fronte, per esempio, viene così dipinto. Sembrava che qualcuno avesse buttato un cerino sull'orizzonte zuppo di benzina e che un genio malefico continuasse a versare del punch su quelle diaboliche fiammate e sghignazzasse lassù, celebrando la nostra distruzione. Ma sentiamo dal libro di Chevalier queste righe sul clima indifferente e cinico nel quale matura in Europa l'inevitabilità del conflitto. A Berlino, quelle che hanno voluto la catastrofe si mostrano ai balconi dei palazzi, in alta uniforme, nella pose in cui vengono solitamente immortalati i famosi conquistatori. Quelli che ci stanno scaraventando addosso 2 milioni di fanatici armati di cannoni a tiro rapido, mitragliatrici, fucili a ripetizione, bombe a mano, aerei, oltre che delle risorse della chimica e dell'elettricità, sfavillano di orgoglio. Quelli che hanno dato il via al massacro sorridono al pensiero della loro gloria imminente. Sarebbe il momento giusto per scaricare il primo e unico nastro di mitragliatrice su quell'imperatore e i suoi consiglieri, che si credono forti e superiori ai comuni mortali, arbitri dei nostri destini, e che invece sono soltanto dei poveri imbecilli. La loro vanità imbecille sta mandando il mondo in rovina. E con questo ringrazio Claudia Carusi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa trasmissione e tutte le altre. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.